The Spike è stato il primo rotolando sui suoi guai, mentre proprio il piccolino si nascondeva sotto il play. Mamma proprio non ce la fa, un po' di forza ancora il papà, un altro colpo resta da solo, poi si arma il giovane Spike. Si arma il giovane.